E allora provateci. Immaginate di avere 12 ore di vita. Sono le 4 e 7 minuti. Ecco, immaginate di avere solo da qui alle 4 e 7 minuti di questa notte. Improvvisamente quello che state facendo perde di senso. Dovete prendervi una manciata di minuti per realizzare che avete solo 12 ore di tempo per godervi le cose che non vi siete goduti, per dire cose che non avete ancora detto. Solo 12 ore. Ecco, quando avete realizzato che 12 ore sono poche, ma nemmeno pochissime, fate una lista. Non troppo lunga, direi, Una lista di cose da spuntare. Perché sì, 12 ore sono poche se dovete andare dall'altra parte dell'oceano, ma sono sufficienti se volete andare a farvi un tuffo in mare, ad esempio, anche se vivete ad Aosta. Sono sufficienti per mangiarsi un piatto del vostro cibo preferito, vedervi un film che non avete visto o che volete rivedere. E soprattutto in 12 ore potete salutare persone che volete salutare, potete dire cose che chissà per quale motivo non avete ancora mai detto. Ma potete anche tentare di cancellare quello che avete fatto e che tenevate sotto controllo. Potete cercare di evitare che qualcuno scopra qualcosa che voi non volevate che qualcuno scoprisse. Immaginate di avere 12 ore di vita e di poterle riempire come volete. Quelle 12 ore, quei 720 minuti, diventerebbero il momento della vostra vita in cui avreste maggiore consapevolezza di quello che volete, di quello che avete fatto, di quello che avete perso, di quello che siete, per dirla in soldoni. Come se il meglio o il peggio della vostra vita fossero concentrate tutte in mezza giornata. Per l'esattezza un tardo pomeriggio, una sera e una notte, poco prima dell'alba. Come se tutte le cose che non fate perché, ma sì, tanto c'è tempo, ecco, improvvisamente diventassero impellenti. Cose senza le quali vi sentireste incompleti in queste ultime 12 ore. È solo un esperimento, Non prendetela come un anticipo della morte, visto che della morte non se ne può mai parlare, perché sembra subito di rendere tutto cupo. Provate semplicemente ad immaginare le prossime 12 ore come le migliori 12 ore della vostra vita. Quelle in cui tutto vi è concesso, in cui vi sentite leggeri per dire e per fare cose che non avete mai fatto. È un gioco. È solo il sogno che ho fatto stanotte. Immaginate di avere 12 ore di vita.